Waeni, waeni, thahue kori chele, thahue lo, yawe, chani, chani, luore di, gogoni, wamoro. Waeni, waeni, thahue kori chele, thahue lo, yawe, dai, chani, chani, Egogoni alolo, waeni, thahue kori chele, thahue lo, yawe, chani, luore dire wa egogoni alolo. Moai chawe tingi luo chagu chenge chauwe wani nige che kulo ilawi dane one wa denge chi sere sere pae ko che lo tane re nge kiore tane re gu atmi e de wa sisi ne adai chikaka anganu iwa ine se gu asuri kawe hadu chi emuwe Tene lore uje ni ka uje ni mo hati che haruri gene dewe me icho yuetu kanu wa saum adaka peoli.